Zoe è appunto anche un luogo di incontro tra le diverse comunità che spesso sono impegnate nel terzo settore, ma anche in tante altre attività sul territorio. Sono esperienze frammentate spesso. Zoe è un luogo pubblico di incontro e adesso sentiamo l'approfondimento. Sostenibilità, valori, collaborazione. ZOES è uno spazio per l'incontro tra associazioni e persone frammentate sul territorio italiano, ma unite dall'impegno nel terzo settore. Ha molte anime. Diventa una piazza per gli acquisti di prodotti ecologici e solidali sulla scia del commercio equo e riunisce iniziative attive nelle regioni italiane attraverso una mappa, gruppi di acquisto locale, enti pubblici, organizzazioni non profit e anche un calendario per eventi sul territorio. A lanciare Zoes è stata 2 anni fa la Fondazione Banca Etica. Nel tempo la comunità su internet si è allargata e adesso guarda alle sfide della globalizzazione, ma con un radicamento nella cultura locale. Allora, Tracanzani, io scrissi di voi 2 anni fa su Nova 24 e l'impressione che ebbi 2 anni fa era di un social network. Non snob, però quantomeno un social network per persone che in un certo senso condividono certi valori, che si ritrovano in una particolare visione del mondo e forte di questo, insomma, guardano insieme in una direzione. Ho sbagliato? Mi ricordo bene del tuo articolo, Luca, di 2 anni fa su Nova. Joyce di fatto è una piattaforma aperta a persone che hanno una base di valori comuni, ma che di fatto non vogliono chiudersi nella loro comunità, come poi sta avvenendo anche uno dei temi, poi l'autoreferenzialità dei social media quando si tende a parlare alla propria comunità di riferimento. Joyce non vuole assolutamente essere questo, ma vuole essere uno spazio a disposizione di tutto il web.